vabbè, potrebbe essere appena appena più cristallina, cioè non potrei dire che è cristallina, però si sente, ha voglia di volume. Sì, ha voglia, vabbè, l'ho fatto abbassare, ma si vediamo perché era troppo forte. Posso anche fare così, vedi, schiarisce leggermente. Ehi, l'hai sentito Luca che ha messo la, il quarto d'onda, la boomerang, arrivava 9.10 abbondante, a metà strada tra 9.10 e 9.15, più 9.10 però. Vabbè, tu sei più vicino, quella è 9.5 e con picchi a 9 più 10. Rispetto a prima che era 7, 8, 8 e mezzo, però intorno all'8 era, adesso è, c'è un abisso, ehi, adesso è come una stazione normale, con antenna, antenna buona, dai. Bene, detto ciò, vediamo, mi sa che faccio un bel caffè, me lo inietto in vena e la serata è fatta, anche oggi abbiamo dato, poi mi accendo la TV, solita storia, qua è sempre il cliché, è sempre uguale, non si scappa. Ehi, ehi, già va bene, già va bene, ok. Allora, ecco qua, così è, così è al massimo della potenza. Riprova. Così è al massimo della potenza, 1, 2, 3, 4, 5, prova radio, prova radio. Allora, ti avevo già sentito nel pomeriggio quando facevi le prove con Bombolo. E praticamente al minimo sei attenuato Santiago 5, al massimo Santiago 6, quindi guadagni un Santiago, non dB, un Santiago. Quindi da così attenuato, da così a così guadagno un Santiago, beh certo, dB è un'altra cosa, un Santiago, giusto? No, rifammelo vedere che ho rimesso tutto a manetta. Allora, da così, da questo passaggio qua, a questo passaggio qua guadagno un Santiago, giusto? No, no, no, no, non è la stessa cosa che ho visto nel pomeriggio, forse è un'altra radio, un altro coso. No, ho variato di poco, di meno di mezzo Santiago adesso, meno di mezzo, tipo da 5,5 a 6 mi attenuato. E allora lasciamo stare così, già va bene lo stesso. Non c'è bisogno di aumentargli tutta la potenza, dai. Quindi da 10 a 20 guadagna poco, eh. Lo lasciamo a 10 watt, l'importante è la radio vada bene, si capisca e sia bella amplificata. No, che non ve ne più smitter, non devo andare. Ehi, va bene tu. Pianto. Comunque è giusto, cioè raddoppiando la potenza a mezzo Santiago aumenta, se l'avessi quadruplicata avrebbe aumentato di un Santiago, di un punto S, dai. Ma senti, dopo cena ti faccio sentire una cosa, così ti accorgi cosa vuol dire avere una, dei buoni amplificatori. Adesso mi sto facendo lo spazio, mi sto facendo lo spazio e dopo, dopo provo l'RM Italy, quello grande. Ti faccio la differenza che c'è con questo baracchino, una cosa allucinante, ma anche di radio e non solo il segnale. Ehi, roba bella ci sta portando, un alimentatore grosso scommetto, che alimenti l'RM Italy. No, mi sta portando l'alimentatore a 24 volts, capito? Perché quello lì fa 12-24, però attenzione che a 12 volts dà una potenza, a 24 volts la raddoppia. Ma anche le ampere sono diverse, giusto? A 24 volts dovrebbe diminuire l'amperaggio consumato, se non sto sbagliando. E si conferma, però raddoppia la potenza, raddoppia il watt. Ehi, guarda, se non c'è film bello, al limite facciamo prove di segnale, più che altro, almeno a vedere quanto aumenta. Ehi, adesso vado a fare il caffè. Dai, riprendi Antonio, QRX per me, bianco per me. Ehi, cappa. Ehi, roca. In ogni passa vedo di devate nuova, perché sei quasi a fondo scala, sì. Ah, dove vuoi andare? Ma questo è il baracchino normale, quello che abbiamo fatto le prove con la potenza solo della radio, questo va da 5 a 20 watt, capito? C'è la regolazione dei watt. E infatti è per quello che lo posso usare con lineare transistorizzato, capito? Lo stato solido, perché c'è la sono elevate, altrimenti non potrei usarla. Scappa, lo so. Lo so, purtroppo. E beh, se più di quel tanto non puoi farla andare, no? E come fai a farla andare? Il cazzo brucia tutto, devi tenerlo a potenza minima. Capito? Perché l'ingresso di quegli amplificatori sono massimo 10 watt. Però questo se lo metto a 10 ne picchi a 20 e quindi devo mettere a 5 per andare sui 10. Tutto qua, capito? Però già scherreggia, già funge. Funge che funge, la matta che ne varia. Già lo vedo già. E dopo lo vedi come va, ancora meglio va. Capo, ma come lo stai alimentando già a 12? Adesso non sto alimentando niente, non c'ho niente attaccato, l'ho già a 12. Adesso quando mi porta l'alimentatore a 24, lo alimento a 24 volts. E proviamo a vedere se schirreggia. Io che va attenuata, comprendi neanche cosa, se no non ne comprendo nulla. Che non posso dare molta, perché c'ho il wattimetro della T230 che è 200 watt, capite? Quindi devo cambiare, devo prendere l'altro strumento, collegarlo, e c'è un bel lavoro a fare. Quello da un kilowatt, perché quello PEP sale minimo a 6-700. Ma basta che ne varia. È una bella bestiolina, e l'RMIT ha fatto belle cose, veramente ha fatto belle cose, funzionanti, buone, serie, ma anche professionali. A me piacciono molto quegli amplificatori lì. Vabbè, dopo lo proviamo, dai. Adesso vado al sistema americano, allora, sentiamo dopo, ok? Intanto domani è domenica, quindi due chiacchiere ce le possiamo fare in radio stasera, dai. Capo, non c'è problema. Okay. Capo, poco fa mi ha fatto sentire una persona che mi uscivo con questo apparecchio, ma è veramente una bomba, Non credevo che uscisse così forte. No, va bene, tutto va bene. Bella la radio, il segnale ce l'hai, no, non c'è nessun problema, vai ottimamente bene. Peccato che sia in una zona molto bassa e l'antenna non è messa sul tetto, capito? Se no arriveresti in capo al mondo. Però accontentati così, Anto, intanto paghisci chi siamo, già va bene. Oh, claro, ti stai sbagliando, io ce l'ho sul tetto. Ah, l'hai messa sul tetto l'antenna? Cappa, io ce l'ho sempre, adesso da quando sono qua ce l'ho sempre sul tetto, la pedolce no, ma qua ce l'ho sul tetto. Vabbè, va la zona magari, solo che lì non è che puoi mettere, vedi, se lì metti più una manta, ma con un tubo alto, un lavoro fatto diversamente, magari andava meglio, no? Vabbè, però adesso mi devo accontentare di questa. Mi devo accontentare. Cavolo, c'è una cosa che ho potuto fare proprio qua e metterla sul tetto. Io mi pongo la cara ciò che attendi. Cavolo. Solo che se tu la guardi, allora, se tu vai in largo infermeria a San Pietro, tu la guardi, è un po' basso il palazzo, è per quello che ho un pochettino i problemi, se no se è stato in piazza con la Mariana, cazzo, è riuscito a una fusilata, è riuscito. Ok, vai. Ehi, va bene, dai, comunque l'importante è che ci sentiamo, poi noi dobbiamo fare gare con nessuno. Già, va bene così, dai. Ok, dai, che mi organizzo e ci sentiamo dopo, ok? Ciao a todos. Ok, grazie. Ti mando la foto. Ehi, Anto, ma chi c'era stasera? Patata è entrato? Ho capito bene, o Palmadula? No, mi ha serrato la patata, c'era. Solo che Antonio non lo sente. Poi c'è Antonio Riserva lo stesso, quindi è rimasto in quel ricco, se capito, se no toccava parlare solo io e lui. No, io per un attimo ho ascoltato, ma non arrivavo, ovviamente. Sono 46 chilometri, però scommetto che c'è roba in mezzo anche. Non è pulita, portata ottica, no. Qualche montagna, montagnetta. Cazzo, devi fare i giri, contro i giri. C'è il montaggio avanti, io lo vedo. No, non è facile. Guardate che a me non mi arriva molto forte a pattare, mi arriva Santiago 7, 8. Io lo stesso li arrivo così, 8, 9, 7, dipende. watt che uso dalla radio che sto usando, non dai watt, capito? Però non è facile sia Rompatana, Budusova, De Sardi, con le Tomini, Ozieri, Oschi, non è facile arrivare da Sassari se non sei aperto così come sono aperto io. Sono vedi gli ostacoli davanti da superare, capito? Cazzo, mi hai se ti ho mandato le foto della mia antenna, così ti rendi conto dove ce l'ho. Ok, cra. Io adesso vado e guardo, vai. Ci sentiamo dopo ragazzi, che vado a portare il cane, se no poi non combino un cacchio. Ciao. Mandagli le mie pure. Fate il breco. Buona tarda Bernardo. Ciao Claudio, buona passeggiata. Non riesco a sentirti chiaro oggi in radio, non capisco il perché. Mi sembravi in FM. Ma chi a me? Sei io. Mi sembrava un FM, sarà la radio 2, se Marco e Antonio mi ascoltano bene, sto usando il baracchino, ma ero con Massimiliano poco fa, abbiamo regolato anche il microfono. A me bene mi sento bene, io già ti sento bene. No, io non ti sento bene per niente. Sei con troppa ripetizione e la modulazione è un po'. Non so come definirtela, non è cupa, non è gracchiante, non lo so. Marco, tu bene lo senti alla Gianna? No, vabbè, la timbrica qua, orecchiometro, va bene, è l'eco che si sovrappone, è troppo esagerato. Ciao già. No, è quello che diceva Claudio, che non era perfettamente cristallina la radio, poteva essere più pura, mi come modulazione. Poi vabbè, c'è un po' risonanze che saranno tipiche del microfono, sono una timbrica particolare. Vai Gianni. Ehi, io guarda, adesso l'ho abbassato il microfono, probabilmente ho toccato la rottilina senza volerlo. Come mi state ascoltando? Adesso ti sto ascoltando bene. No, Marco, sono i baracchini che cambiano, perché Massimiliano mi stava ascoltando col 440 e la modulazione è molto bella. È molto bella, chiara, pulita, anzi me l'ha fatta abbassare, ce l'avevo a 6, me l'ha fatto mettere a 5 il microfono. Sì, dipende anche dall'apparato, che apparato è, come riceve dall'orecchio. Io oggi per esempio sono con un orecchio sinistro fuori uso. È come chiuso, non lo so. Sto sbadigliando per stapparlo, ma boh, adesso piglio il tirabuscione. Vai Anto. Chiamato. No, dico, puoi riprendere o sei da farato? Anto, tocca le mani dal burro. Anto, tocca le mani dal formaggio spalmabile. Ma cosa stai usando tu, Gianni, adesso? Adesso sto usando l'intec da base, ma io ti ascolto benissimo, Claudio. Ieri a te ti sentivo bene. Adesso sì, come fuori frequente. No. Controlla che c'hai qualche problema tu. Io sono in cuffie, sono perfetto. Poi ti ripeto, c'era Massimiliano poco fa, abbiamo regolato anche la microfonia. No, aspetta Claudio, me ne sono accorto. Cioè spostando il coarse appena appena a destra esci fuori, sei come dire indietro di tipo un kilohertz a occhiometro. Indietro di un kilohertz a occhiometro? Non lo so, che cacchio è? Vediamo. E così invece come sono? Come Claudio? Cosa? Ho detto che hai toccato qualcosa? No, perché io me ne accorgo soprattutto passando in CV, si sente proprio il fischio, sei indietro di un chilo, sei, adesso vediamo, prova. No, non lo so, io non ho toccato niente, questo è un baracchino, questo è il solito baracchino che ho sempre usato, non ho toccato niente. Ecco, mi sono rientrato. Avete parlato in due, Gianni e Antonio. Se non me l'avesse detto Gianni, non me ne sarei accorto. Ho toccato il corse a destra, appena appena uscivi subito fuori, sì, un po' indietro. Io dico un kilohertz, ma non ho frequenzimetro qua, è a occhiometro, potrebbero essere 900 Hz, 800, un kilohertz è 1, un kilohertz è 2, non lo so, vabbè. Ma come cazzo fate a dire una cosa del genere? Cioè mica ci avete un HF per fare una cosa del genere. Cazzo c'è tu col clarifer, il clarifer è una gagata, non è nuda. sia la Delta 1 che il Crespo, la gaggata più manna che possono aver messo in un baracchino. Questo c'ha le bande laterali, c'ha MVSB, LSB, il Crespo ce l'ho al centro, non è che lo posso spostare, è al centro, deve rimanere. Sì, sì, ma ho notato che spostandolo appena appena il Coars, non il Clarifier, è più grosso lo spostamento che hai, è indietro. Che dire, non lo so. Comunque basta io che metto il Clarifier indietro e ti centro, sto lì. No, non devi centrare niente, lascia stare così, va bene. Questo non è che devo modulare con questo. Vediamo facendo così, abbassando la potenza, se mi sentite meglio. Boh, no, uguale qua, non... vabbè, dai, tutti dimmi. Già c'ho il Clarifier. Tac, fatto. Chi mancato? Cioè, te l'ha detto Gianni, poc'anzi mi hai dato il controllo, era perfetto. Te l'ha detto Gianni e ti sei... Boh, non capisco. Vabbè, comunque, questo è un baracchino. Vediamo spostando così. Allora, mettendo il Clarifier così, cosa è successo? Ecco, adesso ci sei. No, no, a parte la modulazione, non c'entra, parlavo di frequenza, adesso sei centrato, grosso modo ti sento più centrato. Vediamo così, allora mettendolo al centro così, ecco, spostato anch'io il Clarifier, ma il Clarifier non agisce in trasmissione, così mi senti meglio. No, adesso è tutto avanti, troppo avanti. Torna indietro di un passaggio, così eri perfetto. Un passaggio indietro. Guarda a vedere, così? Così va meglio. Gianni, vediamo Gianni, così mi senti meglio Gianni. Cappa, adesso sei centrato, adesso va bene. Probabilmente il Clarifier funziona anche in AM di Bucche, ne so. Però ho fatto anche io CV dopo uscivi col fischio. Lo sai che anche a me... Che anche a me ha migliorato. Ma Claudio, ma quello qual è il DAC? Non ci sto capendo niente. No, questa è l'altra base che ci ho attaccato oggi perché mi sta portando un alimentatore a 24 volte, devo provare il RM Italy dopo cena. A vedere se lo mantiene bene, perché questo c'è la potenza regolabile, capito? Adesso sono con la potenza massima della radio che sono 20 watt, però va da 0 a 20 watt. Quindi così lo devo lasciare il Clarifier, questa non la uso mai io la radio, ecco perché non abbiamo mai fatto prove, la devo lasciare così? Cappa, così va bene, e io non avrei avuto nessun motivo di dirti una cosa per un'altra, ci siamo sempre detti che quando una cosa non va bene bisogna dirla, io te l'ho detto, poi quindi tu adesso va bene comunque. Beh, se è una cosa da regolare, io ti ripeto, non usando questa radio pensavo che il Clarifier andasse al centro, invece va leggermente spostato anche qua, come tutti i baracchini. Vabbè, quindi è due tacchi indietro anziché centrale. Quindi così va bene, la lasciamo stare così, che problema c'è? Adesso mi metto le cuffie a sentire. Ogni orecchio che c'ha Gianni, non lo posso variare, sono geloso. Già, perché non lo sapevi che l'orecchione, c'è l'orecchio grande. No, ma davvero, io non me ne stavo accorgendo, Claudio, non me ne stavo accorgendo. Anche perché se ne detto è talmente forte che piccole differenze non siamo troppo vicini, no, non me ne accorgevo. Oh, c'ho l'orecchio sinistro proprio fuori uso, è allucinante, allucinante. Ingia, cazzo, fa la prova con me, che prova fai? Prova, bisogna farla con altre persone o con me. Allora, va bene, lasciamo stare così allora, dai. Meglio sapere queste cose. Questo qua è il Simba SSB50DX. Simba? Adesso cerco. Foto, sicuramente c'è. No, io foto non ve ne posso mandare perché c'ho il moto zappa che ancora non è funzionante, ma già si conosce. Già va bene come radio, va bene. Com'è Simba? SSB50DX. Basta cercarlo Marco su internet e lo vedi, no? Sì, infatti io quello intendevo, foto, vado a vedere la foto su internet. Ah, credevo la sua ricerca da Claudio. E questo baracchino sembra così, ma riesce a percepire le cose. Perché voi arrivavate chiari, ho provato il CV dopo e usciva con un fischio come se ci fosse la portante. Per forza te ne accorgi, perché tu c'hai il Clarifier o il Delta 2, non so se c'ha le bande laterali, questo come questa qua. cioè Hitler fa sicuramente una posizione, io avendola in un'altra posizione è chiaro che ti vado fuori. Adesso l'ho messo nella stessa posizione tua praticamente. E mio Claudio farei centrale, io ce l'ho centrale, adesso l'ho controllato apposta. E vabbè, comunque l'interessante è che adesso ti ascolti bene, perché prima è una cosa strana, perché che funzioni anche in AM, solitamente si usa per le bande laterali. Sì, io questo ce l'ho, c'ho le bande laterali anche il mio. E c'hai il Clarex, c'ho il Delta Tune. No, non hai capito. Adesso io ce l'ho centrale come ce l'hai tu, prima ce l'avevo, spostato leggermente a sinistra di due tacche, adesso è centrale. È chiaro che essendo centrale mi senti meglio, evidentemente l'ha spostato. Ma io pensavo che non agisce in AM, capito? Invece sicuramente agisce anche in AM, in trasmissione. Vabbè, interessante capire come sono le cose. Io te lo stavo per dire di muovere il clarifier, però tu sembrava quasi che non ci credessi. Vabbè, andare, comunque interessante, avevo risolto il problema. No, già, non è che non ci credevo. Io ci credo sempre quando mi dite le cose, è che a volte si dicono un bel di fesserie, non in questo senso, perché io manco, ti ripeto, cioè il clef per me può stare a destra o a sinistra, si usa la banda laterale e poi vado a centrarmi corrispondente. In questo caso, essendo in M, non pensavo volesse al centro, adesso l'ho messo al centro e va bene. Aspetta un attimino, abbiamo mandato un messaggio a Massimiliano. No, grazie, la butto pure io. Quando sono stato è come se c'è la differenza. Ce l'ho avuto pure io con la radio così, cavolo. L'ho fatto una volta e sbalatamente stavo uscendo male. E perché fa il fuori frequenza, fa. È successo pure a me un po' di tempo fa. Non lo sapevo, tanto la verità, io baracchini lo sapete, ne uso pochi, però questi ce li ho e mi sto scendendo a prendere l'alimentatore a 24 volts e così mi collego l'RMI tele a 24 e vediamo cosa succede con questa radio. Vai, ci sentiamo tra un po', ciao a tutti. Alla prossima, seconda puntata, avanti, bombolino, bombolone, avanti. Ui, buonasera Gianni. Si è sparato quasi, cavolo. Si è sparato, sto facendo con 3 watt, anzi 2 watt e mezzo per l'esattezza. Vabbè, oramai mi sento tutti sparati, non ho più problemi. Da quando mi ho fatto questo arrivo, cioè, mi sta rendendo parecchio. Sento tutti forti, certo. È una cambiamento, dai. Oh, scusate un attimo, ho dato il colpo importante. E dopo? Sì, 1 e 1 sul 10, però sul 23 mi saranno quasi a 1 e 5. Ciao già, mi senti già, sì? Sì, ti senti. Cosa stai piazzando? Ti ha piazzato, la boomerang è grande, dai, me l'ha venuto Antonio. Come ti arrivo? Ti sei a fondo scala, quando ti arrivo io già. Sempre così. Vabbè, con te siamo troppo vicini, capito? Non è cambiato praticamente niente da te. Qua è sempre fuori la scala, più di 9.30 non va, quindi non va. Se magari se fosse andato più di 9.30 sarebbe arrivato anche più forte magari. È positivo, vabbè, giusto per fare una prova. Riprendete voi che mi devo vestire. Stazionarie, come si... Stazionarie... Aspetta, faccio la calibrazione. Sì, Mario, usciamo. Cazzo, non usciamo. 1 e 1. Allora va bene, tutti i canali? No, tutti i canali, io sul 23 ce li ho quasi a 1 e 5, non mi interessa, va bene così, tanto io non devo attaccare niente già. Ma si può regolare meglio anche. Devi fare l'1.40, poi fai il centrale, fai il 20, fai prima l'1.40 e te le regoli lì, e il 20 poi ti risulta normale, dai, è affidabile. A 40 sono 1.5, devo scegliere qua o al 40, io al 40 non ci vado mai, e me lo tratta qua, ma secondo me non ce la fai a tararla in tutti i canali, magari al 45 ce le ho alte. No, già ce la fai, se tu fai tari il 40, poi tari l'1, prima fai il 40 e cerchi di tararla lì, di abbassarle. Una volta abbassate lì, ti saliranno appena sull'1 e sul 20, capito? Guarda, 45 ce li ho, quasi a 2. Ma penso che ci possa andare a rimedio, Luca, magari se ti appetti di più. Vabbè, con calma, deve essere in due sempre per farlo, perché uno ascolta lo stub e l'altro fa la calibrazione. Vabbè, riprendete. Ciappa, comunque qua c'è una radio da paura, c'hai. Dal tetto l'hai messo? Nel terrazzo, già, dai che mi devo vestire. Vestiti, aiuto. Ah, sei nuda. Ma comunque qua c'è una radio da paura, c'hai. Ah, se ti mando la foto come sono già. Ah, no, non lo fare, perché io sono venuto all'osso. Cappa, comunque qua c'è una radio da paura, c'hai. Ha aumentato su tutto, ha aumentato, è un'altra cosa, Cappa, tu, ma tu quella cosa là che mi dovevi dare ancora ce l'hai, sì. Perché non ho avuto tempo a venire, dai. Perché quella mi serve, capito? Mi serve, se non te ne fai nulla. Cosa che c'è me ne vuoto di chissà cosa? Vieni domani sera se la abbigli. Adesso vediamo, sì, magari domani sera già posso venire. Quando se ne vanno via tutti gli ospiti, perché ci ospiti a pranzo. Se mi libero, vengo, ti faccio un colpo di telefono e ci troviamo in un punto. Non c'è problema, basta dirlo. E tra l'altro non me ne posso nulla di chissà, cosa me ne posso? Ma io sì. K. Ma l'hai provata? Come cazzo l'hai come? Non lo so già, me l'hanno data a me e non so nulla. Ma sicuramente funziona bene. Vabbè, dai, già mi servono tutti gli attacchi, tutto quanto mi serve, dai. Ciao, io ce l'ho qua. Vabbè, cara. Non esce a te stasera? No. Sta bene a casa. Ma ci fai a prendere il coronavirus? Ah, vada. Ci sta troppo bene oggi. Ah, ma c'è battone, ci devi intendi? No, cosa esce a fare? Magari a mangiarci una pizza, poco già mi soffo. No, vabbè che non sono tempi adesso di uscire, perché con questa storia qua è pericoloso, non bisogna andare dove c'è l'assembramento. Io stamattina sono andato da media volta perché quella casa lì non si fa più niente, perché quella storia ha detto che lì non c'ha soldi da anticiparmi, io a dargli i soldi prima di mandarmi la casa non gliene do. E quindi non si fa nulla, non la piglio più. Me ne sto cercando un'altra da Media World. Ne ho visto una della Sony, bella, però non c'ha la radio FM. Ah, sì. Quindi è andata male l'affare. Sì, perché si è rimangiato le parole. Prima mi ha detto che me le anticipava e poi all'arrivo gliel'avrei pagata, che non c'erano problemi. Poi mi ha detto, mi ha scritto la mia fornitrice, mi ha detto che senza soldi non dà nulla, che prima voli i soldi, se no il bonifico, se no non manda nulla. E io dice, non ho soldi perché ho avuto una spesa e vabbè, mi ha trovato scuse, insomma, deve essere si fida. Sa che è pigliato a Barunguru, no già. Io l'ho detto, a me mi sta suonando male, no, io ho detto, adesso ti faccio una cosa, a tutti i miei contatti scrivo che non sei affidabile, gli avevo mandato a tutti i miei contatti il tuo contatto per prendere la roba, mica vende di tutto, i vestiti, scarpe, da tennis, di tutti di più, giubbotti, un sacco di roba vende, no, lei dice che lei ha sempre venduto, che nessuno ha mai fatto storia, che hanno fatto il bonifico e hanno ricevuto la merce, e vabbè io non mi fido. Ma io la giubbia già la butti due ai 2 non mi fido più. Ma tu hai delle voci. Ma vai che già lo troppi, vai. Già di troppi queste cose qua. Bisogna devo zicarle. Antonio, ho visto una della Sony, ma lo sai che la Sony non mette il VAT? Dice che non comunica più il VAT che c'hanno le case, che loro vanno sulla buona qualità e che non c'entra nulla il VAT che c'hanno. Loro dice che vendono sulla buona qualità e basta. Che praticamente ti dicono che la qualità è di ottima, non di ottima fatturazione e praticamente... Non mettono più i vatti che c'hanno, con quanti vatti escono, capisco? Come la Bose è carissima, però io ti faccio sentire il mini Bose rimane a bocca aperta, perché ha un suono fantastico, ha un suono fantastico. Io le conosco tu le Bose, ma non da adesso, no. Io ho un amico che praticamente il poveraccio si è morto, e ci aveva due casse Jense, di quelle da 150 watt, di quelle grandi grandi, un pianto stereo, e la moglie gli faceva sempre storie perché la doveva spostare per pulire. Allora cosa ha fatto? Si ha regalato quelle casse grandi al cognato e si ha comprato le Bose, ci ha messo il sub sotto, sotto la scrivania, e poi due casse piccolissime, ma tu devi sentire che suono. Ma tu che gli si gense? Sì. Ce l'ho anche io, ce l'ho. C'è il sub più due satelliti piccoli. Io ti mando la foto, l'avevo pagato 10 anni fa, quasi 500 euro l'avevo pagato. Ti mando la foto e te lo faccio vedere se è la stessa roba. Ma pompa per me. Si sente con un buon suono pure, Lo so, è molto fedele come sono quello della Bose. Avanti Marco, Condo. Ehi, mi sto bioccando, tipico dell'ora, porca miseria, è un orologio, Io vado a portare il cane, dai, ci sentiamo dopo. Raccoglietevi di Smitter, a dopo, ciao. Antonio è troppo un dogo, rivedo. Ehi, Antonio. Ehi. Dai, va bene, che mi ha portato l'alimentatore, che sono l'alimentatore 24. L'unico che dico mio, Dai, ci sentiamo, vado a portare il cane e poi mi metto all'opera che attacco l'RM Italy. A dopo, ciao. La mia signorone che vai, ciao. Ehi, a voi devo sentire il lato geniale, che mi ha portato Massimiliano l'alimentatore 24, così mi attacco l'RM Italy. Quello è quello grande, allo stato solo, dov'è? Vada gara. E così vediamo un po' di fare ballare questo barracchino. Questo è quello di Pinangelo invece, o Gianni. Di Pinangelo è? Sì, questo è l'Elbex, sempre con lo stesso microfono. Io ce l'ho il microfono Elbex originale. Vabbè, ma io il microfono originale non li uso già, qua c'è un quello suo saponetta, non è Elbex. E uso quello, ma non lo uso mai. Poi c'è quello a coso, quello tipo cantante, quello li sto usando. Quello che c'era Pinangelo, quello che usava con l'equalizzatore. E allora, quello li sto usando. C'ho anche l'equalizzatore, c'ho tutto. Non lo metto mai l'equalizzatore, però. Io va bene, Ehi, dopo lo proviamo, Luca, bene, ti sto arrivando. Fortissimo, sei, non dico quanto è Gianni, comunque sei sul 3, dai. Arrivi fortissimo, capiamo arrivarvi bassissimo. Sì, perfetto, però su 45 ho quasi due stazionarie. Vabbè, lì devi giocare con lo stub, quello piccolino, o lù. Quelli stubi piccolini che ci sono in punta antenna e nel radialetto. Fatto lì, Emi Gianni già se lo ricorda come si regola, dai. Vado a portare il cane, ci sentiamo dopo. Questa è una bomba grande, grande, non è un stub sopra, qua. Ha un coso verticale in alluminio. Mi sa che è alta 3 metri, e c'ha il radialino quello messo a 60 gradi, 65 gradi. Allora, lì praticamente devi regolare a squadra il radiale. 45 gradi devi mettere, vabbè, comunque già va bene adesso, dai. Ma l'altra cosa è 3 dB di guadagno, va pure me. È tutto un altro pianeta. E adesso vediamo, là. Come arriva fuori tutto quanto, bisognerebbe provarla fuori. Sì, fidati già che è un altro pianeta, io ce l'avevo qua, cavolo, e pompava. È un bel grande, io l'ho vista, quando l'hai piazzata l'ho vista, è un bel grande. Sì, ma è un altro pianeta, è su un altro pianeta. A me ti permette di comunicare forte, non è un rugicomburo, no. Con questa oggi sono arrivato a Porto Torres, con questa qua, con la Ringo. Ho sentito Eugenio, No, la Ringo già va bene, solo che quando prende umidità è un casino, e quello è il problema della Ringo, che devi isolarla bene perché prende umidità e ti sa come faccio dare di colpo. Ah, ma è un bauguro meglio già. Oh. E allora, a qualche sera bacia ancora. Allora, vabbè, comunque già va bene, già va bene. Interessante che ci sentiamo da lui. E magari c'è una pena di cose, però. Cavolo. Ma io sono, da quando l'ho piazzata va bene per me, non ho problemi. Assurdo, la sera mi pare pure migliore, mi pare a me. Ascolta, non solo l'hai piazzata. Io me l'ho piazzata. È leggera intanto, no? Sì. Che non l'ho mai piazzato, me. Me l'ho piazzata da solo. Gli ho messo il nastro e gli ho messo la vasellina a tre parti. Hai la vasellina? Vulcanizzante, non l'hai messo? Sì. Interessante, bisogna vulcanizzare il nastro sopra per stringerlo di modo che rimane attaccato e poi il nastro adesivo se ne va via da solo. Ma se vulcanizzate poi si indurisce, non esce più. Ai, Marco. Sì, col taglierino già esce il vulcanizzante, certo, dopo vari anni risulta secco, no? Tutto secco, ma bene o male già si riesce a toglierlo. Io intendevo che non esce più con l'intemperie, che non lo stacca. Ah, quello, allora dillo che sei di Livorno. Cazzo, sempre a correggere Marco, ma... Oiaiai. Praticamente tu metti il nastro adesivo sopra... sopra il vulcanizzante. E poi quello lì esce, si stacca, invece il vulcanizzante rimane attaccato perché il nastro si mette per tirare il vulcanizzante, per tenerlo attaccato bene. Ci vuole meglio, capito? Per farlo rapprendere, dai, per fargli fare la presa, dai. Chi è entrato? Buonasera. Marino mi è sembrato, tu sei... Ok, ciao Franco, ciao Gianni, ciao anche Antonio. Antonio, sono un po' con 5 ottava, ok, avanti Antonio. Buonasera Marino, buonasera. E esatto, meno male che non può segnare, dai. Stai parlando di vasellina, non ho capito, senti te la leggiando, io mi trovo vasellina a Antonio, non avanti già. E allora, sto scivolare meglio. Buon vestaglio, avanti Marco. Ma infatti, certe volte, se uno deve fare antenistica, certe volte vai in farmacia e chiedi a un tubetto di vasellina, pasta di vasellina, e vedi che ti guarda sottecchi il farmacista. Perché non lo sono prima, capito, hai matto. Avanti già. Abbassa appena la radio, perché stai scendo strappato, non stai scendo chiaro. Oh, guarda questo passaggio, già? No, abbassa ancora. Ancora? Non è centrato bene forse, non ti sento un cupo, non lo so, chiedi agli altri, io ti sento così. Sono in buio per un tubo, Adesso abbassa ancora, avanti Marco, come mi senti? Ora beh. Dai. Bene, da Antonio Bombolo, avanti. Cappa, già va bene Marini, già ti sento bene. Caspita, c'è anche un bel segnale, esce un beso. Prova a vedere. Io Marì, quanto ti arrivo a 80 lì? Con questa radio 9.15, la radio non se ne parla perché arrivi super 5. Cappa. Andava, avanti Marco. Eia, adesso vedo se la macchina del caffè è calda, che la faccio scaldare molto, e se è più buono il caffè. Però se è calda e procedo, ok? Dai, un attimino di bianco per me, riprendete. Marco, aggiungi una spuzzata di vasellina. Pure nel caffè, pucci, chissà cosa esce. Non so, devo chiedere a Antonio questo, Antonio avanti. Cappa, io la pongo barantenna, la pongo, per non passare per l'intemperie. E dico che è efficace, o ripone grasso o ripone la vasellina. Cappa, comunque mi sta arrivando un bel forte, non ti ho mai sentito così. Perché mi sono messo sotto aceto stamattina, Antonio. sotto al centro tutta la mattina, tutto qua. E comunque sta scherza, la vaselina è efficace, sì. È la migliore amica del grasso la vaselina, tu. Sì, sì, sì, io la metto sempre nelle antenne. E quando mi può curibrile so ben di nuovo, so, non ne ho problemi. Ma d'estate si scioglie, diventa olio. Vabbè, adorra Puni. È sempre unta, sempre umida la vaselina, non è come il grasso che si asciuga, capito? Si asciuga e non è secco, invece la vaselina è sempre unta. Tu prova, è una cazzata che non si fa niente, controlla la batteria della macchina come mette la vaselina, rimane sempre bella fresca, no? Avanti già. Io gliela mettevo sempre nei borsetti prima, perché si usano lì i borsetti, li mettevo sempre o il grasso o la vaselina. Esatto, la vaselina è più efficace, capito? Domani sempre bella. Il grasso, molte volte è grappa polvere con la presa del corpo, non capito? Va bene che è grasso, però io metto sempre la vasellina, rimane sempre bella unta, umida e così via. Avanti il bombolo. Cappa. Dove arrivo io, papà? A te il bombolo, c'è la fame che tu, bombo, andiamo vai, andiamo. Santiago 9, Radio Super 5. No, io c'ho la ringo, non c'ho la toro. Ma una cosa mi sta uscendo, ma attenzione, mi vuoi prendere al sonno tu? Ho capito. No, io ce la ringo. Io ce la stella. E c'è buona già, capo, armi bene, forte. Sei quasi 9.20, sì. La conosci la stella? Cosa c'è la stella? La stella ce l'ho, la stella è. Una cosa mi aveva data mio collega, e c'era un difetto ma l'abbiamo risolto, c'era un bacchisio. L'ho cambiato la staffa, cioè la staffa era tutta verniciata, e la staffa, no, cioè quella L che c'è, no? E la tua verniciata io con la nuova, la bella pulita, dei pezzi dove per fare la massa, ma mi durava poco. Durava poco e buttava ruggine e così via. Allora preso, mi ho procurato un pezzo di acciaiolino e me l'ho fatta. L'ho portata da Nicolino, per fare, l'abbiamo piegata, bucata, poi ho bacchiso l'antenna, l'ho smontata, ho rifatto il filo interno a nuovo. E basta, l'hai ben piazzata, è tutto ok. Quando si può far rivivere, per resuscitare la roba, è meglio che si faccia resuscitare, dai. No, adesso sono antenne buone quelle, c'hanno belli radiali, no, quelle antenne? 8 radiali, c'hanno 8 radiali, sono sottili e va bene, anzi adesso ne ha 7, perché una, quando la stavo testando, c'era un po' di vento, poi dopo ho detto, me ne sono sceso dal tetto. Ho lasciato 7, ce l'ho qua davanti, l'ho stile, ma già va bene. Sì, una volta che stavo facendo, ho fatto la staffa nuova e ho smontato tutta la bobina, non so se la conosci. E ho andato a installare insieme a Bacchesio, il filo nuovo. E già va bene, una volta che l'ho aperta. Anzi, ho fatto bene aprirla perché era quasi staccato il filo interno. Dunque, in tempo ho fatto. E abbiamo messo nuovo il filo interno. È rimasta la sua bambina, saldato e piazzato, tutto qua. Bene, mela, bombo, avanti. E capa, per quello che ti senti a bomba oggi, ma ti sentivo molto più basso, sei una fucilata, sei quasi 9.20 qua a me, da casa mia. E c'è perché tu, se tu sta facendo la finestra, mi vedi? Guarda la stella che vedi a sinistra, quella lì sono io. Lontano era, c'è ottava, sì. Però, già, capo, c'è una bomba qua, Tu la sei all'interno di questo vicolo, così mi hai detto. Cappa, sono lì. Ok, dai. Avanti, Gianni. Mi sa che io vi saluto e vado a portare giù il cane, perché adesso come mi ha sentito si deve misurare. Però sembra che non capisca che sta andando. Vabbè, dai, vi saluto tutti cordialmente, mi ha fatto piacere fare questo piccolo questionato. Ci aggiorniamo domani per quella cosa là. Vediamo un po', se ce la faccio non c'è problema. Magari mi vieni incontro per non stare a entrare con la macchina e qui viuzze che io non so se manca si può passare chi. Cappa, dai. Non c'è problema. O mi aspetti in corso Vico o ti metti lì in largo fermeria San Pietro, anzi la piazza con la Mariani mi aspetti lì, vediamo la palestra. Oh, tu quella che già non è stata, quindi fare, fare la piantina fare da Gianni. Va bene, dai, Antu, ci sentiamo, dai, siamo, dai, ci mettiamo d'accordo per telefono. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti, buona serata, ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltoni, ciao Marino e anche Antonio, dai. Statemi tutti bene, ciao. Sì, ok, riprendo io così ne approfitto anch'io, là. Ciao già, ben sentita, domani stai con Tire. Mi ha fatto piacere anche a me, ciao anche Antonio, ciao Marco, ciao tu anche per me, tutti gli ascoltoni, anch'io faccio pure per te. Ciao Antonio, domani se concilia, ciao Marco, idem, come detti per me, avanti in tu. Marino. Eccomi. Bene, ti sto arrivando a Ottava. Ottimo, 9:20, anzi leggermente un po' saturo, veramente, Claudio. Ah, da te leggermente un po' saturo, boh, vabbè. Ognuno ha le sue radio, oggi vuoi ti dica, dai, mi interessava sapere se mi sentivi bene. Ok, sono rientrato adesso col cane, dai, ci sentiamo dopo, ciao Mari, ciao a tutti, che mi preparo questa roba, dai. Sì, chiaro Claudio, va bene. Qua non ci sono problemi, forse si sente che sei bello forte. Ok, purtroppo ognuno ce la sua radio, in effetti. Claudio, leggermente, io non ti sento leggermente stato. Sarà la mia sicuramente, ok? Ciao Claudio, più tardi, ciao, correnti per me, ciao. Ciao, ciao a tutti, dai. Ciao, ti ho mandato la foto del microfono, quello che aveva Pinangelo, eh. Ok, con il baracchino, vabbè, l'ho messo sopra il baracchino. Il baracchino è nuovo, nuovo, uno spettacolo. Ho messo i pomelli tutti cromati, ho tolto quelli neri che c'erano, li ho messi tutti cromati, nuovi, che ce li avevo dentro la busta, è uscito uno spettacolo. Va bene, dai, che adesso mi siedo e mi sballo questa roba che ci vuole posto qua. A dopo, signori. Vado a vederlo perché il telefono ce l'ho là, non ce l'ho qua. Va bene, dai, ci sentiamo, buona serata. Fatevi spaccare i baracchini, io lo spengo. No, non devo spaccare niente, già. Devo fare delle prove che mi interessa per allineare questo baracco, che non l'avevo ancora provato. Ok, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Yeah. Ciao Cla, oh, chi ti è rimasto? Marco, un attimo di bianco, scendo giù a cambiare l'acqua di olive. Un attimo, mando la foto di lineare, forse non l'hai mai visto tu, il lineare che ho io, quello è stato solito, tanto. Metti la che voglio vedere. Io vado a cambiare l'acqua di olive e poi risalgo qua. Avanti! Sì, buonasera! Antonio Bombo sono, buonasera a te! Io sono sempre Gianfranco La Scimmia, ciao Antonio! Stavo rispondendo al telefono, stavo rispondendo! Come va questa radio Antonio? Ah, proprio sì, io sì, segnale, però già va bene! Masso? Un po' di segnale sì, però va bene, dai! Quasi 9, sì. Però già ti sento, la radio comunque è buona, è forte. Ah, quasi 9, ho capito. Vuol dire che è rimedio. Non lo so, magari gli altri ti sentono un po' più forti di me. Vabbè, siamo un po' distanti noi, eh. Sì, dove sei tu un po'? Zona Corso Vico. E tu arrivo 9? Sì, la verità ti dico. Tino, tu sei? Uova. Cavolo, eri 7:30 un attimo fa, adesso sei 8:30, ma comunque non è il tuo segnale assolutamente. Lo so. Non è il tuo segnale, no. Lasciamo vedere. E io e tu sono le prese in cucina, dai, a dopo, ciao. Adesso? Sempre 7:30 modulato 8. È un bel basso, boh. Bene, dai, sono contento, aspetta una filina. Ah, ecco. Bene, allora? 10 pieno. Ah, va, va, va, va. Sto provando una verità. sono una cosa, ma non filare. La storia. Ava sei tu. Ciao, no, stavo, stavo provando a filare, dai. Ehi, ehi, io sto usando il baracchino, adesso mi collego. Mi collego l'RMI tele a 24 voci, però mi sono fatto prestare il, l'alimentatore da Massimiliano. Andare, anche perché avevo segnale basso di Antonio. Antonio, come va ora? Ah, cavolo, adesso sì, sei quasi 9:20 adesso. Va bene, aspetta un attimo che cambio, cambio il radio. Beh, senti qualcosa quando schiaccio il mic in questa radio? Te lo rifaccio, eh? Il rumore c'è, cos'è? Cosa c'è? Un rumore. Fa ciac, ciac. Vabbè, a parte questo che cosa qua, aspetta che lo abbassiamo. No, vabbè, qua ciac lo fa anche il mio, non è niente, a tutti i dini. Ma è feo, non mi piace sinceramente. Relè dei baracchini. Anche questo lo fa anche il Dati addirittura lo fa ancora più forte. Ma tu con questa quanto ti arrivi da te? Sopra 3 siti, non lo so, il baracchino sul 440 e sull'altra mi arrivi dove c'è il 2, 9:20, qua sei sul 3, non so cosa vuol dire. No, Antonio stavo chiedendo, che questa è un'altra radio. Antu, guardati il segnale, poi chiediamo a Marco, che è stato l'unico che si è accorto che...